GR24 Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. A una settimana dall'inizio dei Giochi di Londra comincia l'attesa anche per i grandi eventi che ci aspettano, ma l'Olimpiade perde per infortunio un altro grande protagonista, Rafa Nadal. Sognava di difendere l'oro olimpico sull'erba più prestigiosa al mondo, quella di Wimbledon, ma niente Londra 2012 per Rafael Nadal. Il tennista spagnolo non disputerà i giochi a causa del solito infortunio al ginocchio che lo tormenta ormai da tempo. Non sono nelle condizioni fisiche per poter partecipare alle Olimpiadi, fa sapere il mallorchino in un comunicato. È sicuramente il momento più triste della mia carriera. L'iberico numero 3 al mondo non potrà così difendere sull'erba di Wimbledon la medaglia d'oro conquistata a Pechino 2008. Del resto, proprio a Wimbledon a fine giugno, Rafa, campione sull'erba londinese già nel 2008 e nel 2010, era stato eliminato a sorpresa al secondo turno in 5 set dal ceco Rosol, numero 100 al mondo. La Spagna ora dovrà anche cambiare il suo portabandiera, dato che il Comitato Olimpico Iberico aveva scelto proprio il tennista 25enne per sfilare con la bandiera nella cerimonia di apertura dei giochi il 27 luglio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24. Ora andiamo al calcio. Dal ritiro del Brasile, prima conferenza stampa di Thiago Silva da giocatore del Paris Saint-Germain. Sono felice di questo trasferimento, ma triste per il mio addio al Milan. Gli ho vissuto emozioni molto forti, è un club che si dedica ai giocatori e al gruppo e io gli devo tutto. Thiago Silva tiene a far sapere di volersi scusare con i tifosi del Milan. Intanto c'è chi cerca il top player, la solita Juventus. Martin Cáceres indica le sue preferenze. Un giocatore che mi piace, che può venire qua, è lui o Edison Cavani, però non dipende da me. Tutti sono giocatori, credo che come il della Fiore e il dell'Arsenal, credo che è un buon giocatore lo due. Però non è che preferisca uno, solamente che bueno, Van Persie per sua professionalità è un giocatore più forte. A fare i fatti, mentre l'Inter prende Mudingay dal Bologna, il Napoli presenta Berami e Gamberini. Parla così il presidente De Laurentiis. Perché noi vorremmo quest'anno cercare di fare bene subito nel campionato, non avendo il peso della Champions, che ti leva un sacco di energie, e a questo punto è chiaro che volevamo avere anche dei giocatori pronti per il campionato italiano e che non dovessimo aspettare un altro anno e mezzo, due stagioni, perché poi potessero dare il meglio di loro stessi. Infine, ultima giornata di grandi montagne al Tour de France con i Pirenei e gli ultimi attacchi a Wiggins, che però si difende da campione, arriva terzo dietro a Valverde, che vince la tappa, e allo scatenato compagno di squadra Froome, sempre più secondo. Vincenzo Nibali difende il terzo posto. E ora che tutto è compiuto, godiamoci questi ultimi tre giorni inutili. Complimenti a Wiggins, che ha vinto grazie al compagno di squadra Chris Froome, che si tenta sul malgrado del secondo posto, anche se tutti sanno che il vero vincitore è lui. Complimenti al nostro Vincenzo Nibali, l'unico che prova ad attaccare e alla fine porta a casa il podio, un terzo posto che vale molto. Complimenti anche agli organizzatori che disegnano un tour imbarazzante, che ora vivrà tre giorni insignificanti, tre passerelle, quella di oggi per velocisti, quella di domani per i cronomi e poi quella di domenica sui campi elisi per la storia e la grandeur. Il tour è finito ieri sui Pirenei quando Vincenzo ha perso contatto dai primi e Wiggins non ha perso contatto da Froome solo perché al Keniano Bianco gli hanno ordinato di aspettarlo. Ciclismo radiocomandato per un film Sky dal finale amaro. Il più forte generalmente vince, non è questo il caso, vince il più inglese, quel Wiggins campione olimpico e mondiale della pista che nel 2009 si è convertito alla strada. Perde Froome, inglese di passaporto ma nato a Nairobi in Kenya e cresciuto in Sudafrica, insomma troppo poco inglese per poter essere il primo inglese a vincere il Tour de France. Dio salvi la regina e consoli Christian Froome. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Blagnano. Ed è tutto per questa prima pagina sportiva di oggi, vi aspetto alle 14 con A Tempo di Sport.